L'idea è nata da una discussione, da una riflessione che abbiamo iniziato all'interno della nostra associazione, in particolare del gruppo Mondialità della nostra associazione, direi nell'ultimo periodo, ma che abbiamo intensificato con la vittoria elettorale di Trump, perché ci preoccupava e ci preoccupa il consenso crescente tra le donne verso politiche di estrema destra e anche personalità, donne e uomini politici della destra. Un consenso che si è espresso anche in termini di flussi elettorali, perché anche in Italia si è notato che quello che si chiamava il gender gap, cioè il divario di genere tra i votanti verso la sinistra, verso la destra, si è ristretto. In tradizionalmente le donne o non votavano, l'astensionismo femminile è sempre stato più alto di quello maschile, o votavano a sinistra. Ora questo non è più vero. E l'altro elemento è stato, come giustamente lei diceva, anche questo assistere ad una proprio distorsione delle parole d'ordine del femminismo. Pensiamo solo alla libertà di scelta, che per noi, per Orlando, per le femministe, riguarda l'autodeterminazione della donna anche rispetto al proprio corpo, rispetto alle proprie scelte sessuali e riproduttive, e diventa invece nel discorso della destra la dare dei contributi, delle misure, un sostegno perché si scelgano stili di vita tradizionali, una famiglia tradizionale, una scuola possibilmente confessionale. E quando Roccella parla di diritto delle donne a scegliere, diritto alla maternità, vediamo proprio il rovesciamento totale di quello che è un discorso chiave del femminismo. C'è questa affermazione di leader donne di estrema destra, ma anche della sinistra liberale, che ci fa capire che evidentemente non basta essere donne per essere femministe. Ma di questo siamo sempre state molto convinte. Noi abbiamo sempre avuto, parlo di noi come associazione Orlando, ma per noi è sempre stato discriminante un criterio. Ci riconosciamo nelle politiche istituzionali delle donne. Noi siamo un'associazione della società società civile femminile, non siamo donne istituzionali, ma il rapporto con le donne delle istituzioni è possibile nella misura in cui abbiamo a che fare con donne che fanno politica di donne, quindi secondo anche le modalità che il movimento delle donne ha espresso, politica con le donne e politica per le donne. Tutto questo non mi sembra accada con le leader di destra. Dando anche una letta agli ospiti che appunto saranno presenti all'incontro, che ruolo avranno all'interno del dibattito? Che contributo ci si aspetta che possano dare? Le relatrici che abbiamo chiamato, che sono per le interlocutrici, perché abbiamo anche lasciato un ampio spazio per una discussione, le abbiamo scelte perché recentemente hanno scritto dei libri molto importanti, proprio analizzando sia il discorso della destra estrema, destra patriottica, la destra dell'esclusione, e che ora vediamo al governo in molti luoghi, sia appunto, come dicevo, il discorso della destra sul genere, non solo le donne ma sul genere, perché per noi è importante il discorso di genere. E hanno anche esaminato con molta attenzione proprio la carriera, le caratteristiche che di queste donne leader della destra, a partire da Giorgia Meloni a Marine Le Pen, ma anche a Weidel e anche altre esponenti della destra. Abbiamo voluto dare un quadro internazionale, per cui Cécile Callat, che è francese, che vive a Parigi e ha collaborato a una collana appunto sulle donne della destra, parlerà sia della situazione francese e di quella tedesca. A Nadia Urbinati, e conosciamo come studiosa del populismo, vive a New York e nella Columbia University, e a lei abbiamo chiesto in particolare una relazione, delle riflessioni sul voto femminile. Ricordiamo che Trump ha vinto contro una donna, contro Kamala Harris, quindi c'è un elemento di grande interesse, e le questioni di genere hanno avuto una grande importanza nella battaglia elettorale americana. E Giorgia Serughetti ha pubblicato recentemente un libro che si chiama Un altro genere di politica, in cui esamina sia la figura delle donne della destra, ma anche appunto il contesto teorico in cui loro si collocano e a cui fanno riferimento. Quindi un libro molto importante. Giorgia Serughetti insegna filosofia politica alla Bicocca a Milano. E lei citava prima una delle ospiti, Cécile Callat, che ha scritto un articolo di recente, che appunto è stato citato anche nella vostra introduzione, dove emergono a queste le politiche di donne delle destre contro la comunità LGBT e a protezione della nozione, no, di famiglia tradizionale, di nazione, nonostante nelle biografie di queste donne effettivamente questo elemento tradizionale non è mai presente. È una strategia sicuramente. Cosa serve esplicitare questa contraddizione? È una contraddizione importante. Devo dire che sia Cecil Tallard, ma anche Serughetti e anche troppo una terza studiosa che non è potuta venire per motivi di salute, che ha esaminato Eliane Alestrat, tutte mettono in rilievo questo aspetto, questa della difesa dei diritti delle donne, per così dire, anche i diritti LGBTQI+, in funzione xenofobica e anti-islamica, cioè viene presentato, viene costruito un discorso, una retorica secondo la quale l'Occidente è la patria dei diritti individuali e sulla base di questa affermazione si costruisce un discorso di supremazia culturale, razzializzata, etnicizzata, che molto spesso ha appunto un risvolto, anzi sempre ha un risvolto xenofobico e in particolare islamofobico. Questo l'abbiamo visto sia nei commenti ai fatti di cronaca, per cui a volte sentiva la destra sembra che la violenza contro le donne sia dovuta all'Islam e non invece ai rapporti di potere e a un sistema di patriarcato che colpisce in ugual misura donne di provenienza di background islamico e non, e l'abbiamo visto anche nella politica internazionale. Ricordiamo che si andò in Afghanistan in nome delle donne afghane e quindi c'era appunto questa idea di una superiorità morale che consentiva anche l'intervento militare. Tutto questo ha un nome, si chiama femonazionalismo, che è un termine creato da Sarah Harris, e anche un altro nome che è omonazionalismo, denunciato appunto da studiosi del pensiero queer e dei movimenti LGBTQI. E in questo momento di appunto forte cooptazione della lotta femminista, qual è una rappresentanza a cui può essere utile pensare quando appunto donne al potere come Meloni e Le Pen cercano di in qualche modo appropriarsi della lotta appunto delle donne, delle persone LGBT, e quindi che importanza potrebbe avere una narrazione alternativa, quindi un movimento collettivo alternativo anche qui appunto in Italia? Io credo che questo sia quello che lei dice, sia assolutamente la cosa da fare ed è la domanda sulla quale abbiamo chiamato questo incontro. Cosa significa oggi il femminismo e che cosa possiamo fare come femministe intendendo in senso largo? Noi non abbiamo una visione ristretta del femminismo, è transfemminismo, un femminismo inclusivo. Le autrici che abbiamo chiamato e anche noi stessi, insomma, hanno alcuni criteri secondo me molto interessanti. Il primo è non perdere di vista la libertà delle donne e la libertà dei soggetti. Questa è una discriminante fondamentale. Quando questa libertà è messa in discussione in nome di una falsa libertà liberista, ecco, qui a questo punto dobbiamo essere molto chiari e avere anche dei momenti di mobilitazione comune, direi. L'altro elemento da tenere presente è che il movimento femminista non è mai stato un movimento, non vuole essere, cioè forse qualche volta sì, un movimento escludente, è un movimento che non ha niente a che fare con progetti nativisti, autoritari, conservatori. Quindi il tema è centrale di uguaglianza nelle condizioni, uguaglianza nelle opportunità e anche uguaglianza e rispetto e riconoscimento reciproco. Allora noi questi criteri li dobbiamo riaffermare con forza, perché qualcuno, adesso non ricordo chi, ha parlato di un emancipazionismo reazionario per definire la politica delle donne della destra. Ecco, di fronte a questo emancipazionismo reazionario dobbiamo in un certo senso riproporre, ripensare e rimettere in azione le nostre parole d'ordine con un'estrema chiarezza rispetto a quelli che sono le discriminanti forti.